Economia e contrasto della crisi, cambio climatico, una risposta alla sfida demografica, sicurezza su tutti, terrorismo e immigrazione, infine il ruolo dell'Europa nel mondo. Sono questi i punti su cui si basa il manifesto programmatico dei popolari europei, primo schieramento nell'Europarlamento uscente. Our goal is to win the European elections in June. Come spiega il presidente Wilfried Martens, il PPE intende affrontare con questo manifesto le numerose sfide che attendono il vecchio continente. Il secondo gruppo all'Europarlamento, il Partito Socialista, ha invece varato un manifesto elettorale in 6 punti dal titolo emblematico People First. C'est vers la fin maintenant, pas la fin pour nous. Per il presidente del PES, Poul Nyrup Rasmussen, i socialisti puntano a rilanciare l'economia evitando nuove crisi, a rendere i cittadini partecipi di una nuova Europa sociale, a rafforzare la lotta al cambio climatico, a farsi portatori dell'uguaglianza tra i sessi in Europa, a sviluppare una politica migratoria più efficace e a rendere il vecchio continente un attore globale per la pace, la sicurezza e lo sviluppo. They have contributed to each and every important... Annemie Neitz, presidente dei liberali europei, ha delineato invece i 5 capisaldi della terza formazione del Parlamento uscente: libertà civili, crescita e occupazione in un mercato integrato, rispetto dell'ambiente e politiche energetiche, allargamento, politica estera e di difesa. I Verdi puntano tutto su un manifesto elettorale paneuropeo, concentrato su un New Deal ambientale ispirato al modello Obama. Gli altri gruppi politici nella precedente legislatura dell'Europarlamento erano Europa delle Nazioni di destra, Sinistra Europea e Indipendenza e Democrazia Euroscettica. Novità assoluta a queste elezioni il movimento paneuropeo Libertas, che si batte contro il Trattato di Lisbona. Infine un occhio ai dossier che attendono il nuovo Parlamento su tutti: cambio climatico, crisi economica, immigrazione e diritto d'asilo, riforma del bilancio europeo. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.